Ciao Mari. E chi è? Poi prendi un busto. Sta uscendo male. Io sto uscendo male. A me non mi risulta. No, sembra che ci dentro. Come si dice, dentro una scatola. Comunque doppio rumo avanti. Io non mi hanno mai detto che con questa apparato esco male. Mi hanno tutti detto sempre che esco bene. È strano. Avanti, alza la bagli dentro una scatola e sta uscendo tutto grinchegnando. Buonasera comunque. Ciao. No, è perché ero lontano, capito? No? Questo qui è l'apparato che esco meglio, da quanto vi dico, no? Sì, no, sta uscendo bene adesso sì. Poco fa sembrava dentro grigginando e sembrava una scatola. Ah, ti catta! E si è sempre così bene. No, adesso stai uscendo benissimo. Chiara chiara la voce adesso. Beh, l'effetto camera quello lì, perché quando sei lontano prende tutta la cosa dalla camera, capito? Il vuoto, normale. E allora, i telecontas. Cosa? Qua mi fate andare a compagnare un cane. Pure a me. Ah, mendui. Andiamo. A proposito di cane, hai visto che hanno approvato in una regione, non una regione, in una città, hanno approvato che si può mangiare la carne di cane. Maria. I cinesi sono sempre lì. Sarà in Cina, sarà. No, non è in Cina, no. È in Austria, roba così, mi pare. No, è uno schifo quello, mangiarsi la carne di cane proprio di... Boh, catta, proprio dei animalisti, che sono loro che sono animalisti, avasso hanno provato a mangiare la carne di cane, boh. In Cina la della mattanza, no? Praticamente c'è un periodo che festeggiano e abbassano i cani, abbassano i cani a go-go, fanno le feste in piazza con la carne di cane. Carità, sono proprio schifosi, sia cinesi che aveva risciato il burro. Stamattina me l'ho vista brutta, stavo scendendo in via Valletta col cane, e io che andiamo a fare una passeggiata, visto che sono mio figlio. Andiamo a fare una passeggiata, sono compagno da casa, e sto passando in via Valletta, tranquillo, a cosa, a un certo punto un gatto, questo pitbull, si sgancia la pettorina, scappa dalla padrona, gatto, e va verso a Tyson, che lui non è masito, però c'è a me la farà, non mi piace. Ma l'ho visto che gli stavo andando incontro, il gatto, si piace, ho scritto la parola di me, decido della fermare. No, c'è un metodo come fermare il pitbull, c'è un metodo. Che gli devi puntare la mano verso il collo e bloccarlo e lui si ferma subito. L'ho fatto a un coso, io l'ho fatto a un canile, a un pastore tedesco, e si ferma a fare uno mio. Sì, ma questa ce la fa. Allora, il ragazzo l'ha lasciato alla ragazza, gli ha detto tieni, io l'ho sentito perché erano dall'altra parte, ma si sentiva. Gli ha lasciato il cane e se ne stava andando. E alla ragazza praticamente il cane deve essere o che perché ha visto a Tyson sicuramente, o perché l'ha mollato il padrone, se ne è tolto la pettorina, è tornato indietro, si è tolto la pettorina, è scappato a raggio, è andato verso il Tyson stava facendo la pipì, ma ha accorto se n'era. E io ho detto attento, si è girato, lui nel frattempo che stava arrivando è andato per morsicarlo, io ho giù verso l'ubiri, buh, e ti ho già allontanato, ma non proprio fare andare i biri, l'ho allontanato, capito? Ma ti sei dato la macchina come ti ha giù l'ugoico. Poi cosa ha fatto? La padrona stava cercando di prendere il padrone lo stesso perché ha visto la storia. E si è andato in mezzo alla strada, non riuscivano a prenderlo, ha fatto di nuovo il giro per andare a morsicare a Tyson, però Tyson lì era pronto, se arrivava, non lo so, capitava a goppi. A me per sempre un pastore tedesco che ci inventa a Romeo. Ah, oh, per dire, che non mi è più alto di chi su. E chi sei cura coppa a dare il lacchi, la nostra cugina per avanti, a girarsi. Che aspetta, mi ha toccato pigliarlo, filmarlo e tenerlo per sotto, sotto il collo. Ah, fermo, sino a che non la giro lampada a terra. La padrona gli ho detto, questi cani, oltre il guinzaglio, ci vuole la museruola, io ho capito che ti è scappato. È successo anche a me che mi è scappato il cane mio così, perché non sono molto sicure le cose, le pettorine, è più sicuro il guinzaglio a strozzo, però io non glielo metto perché li fanno venire a tracchite quei guinzagli. È fantastica perché io lo capisco che ti è scappato, però se avessi avuto la museruola non sarebbe andato correndo a morsicarlo, e anche se ce l'avesse fatto l'altro non ce l'avrebbe fatta a morsicarlo perché va la museruola. Non ti infatti è così, ci vuole quei canini, ci vuole la museruola, ci vuole. E ancora sono convinto di essere senza museruola e con la pettorina. No, lo fanno sempre così, lo fanno tutti. No, ma ve ne sono bei nuovi. Non ci vuole né pettorina per quel cane, ci vuole il guinzaglio a strozzo corto, perché sono cani che si avventano e devi insegnare a camminare a fianco e non farli andare, perché se quei cani lì hanno un guinzaglio lungo si è buttito. Infatti è così, io ogni volta che li vengo c'è un garrera. E anche io, però ci sono gente che è sfacciata, cammina sapendo che sono cani pericolosi, cammina allo stesso tranquilla così, sino a futtire i capelli, compreso. Non gliene frega niente se morsicano gli altri cani, tanto dicono il mio è forte. Chi non ha ciappia che ha chiamato un cane più grosso dentro, vedi cosa arrivati, tipo Martino Napoletano, o cosa abbiamo su di Dog de Bordeaux, eccetera, eccetera. Se c'è uno di questi cani, atterra subito. Ciao Gianni, ciao Tore, buonasera. Buonasera anche a lì. Avanti. Ho già, sono un giorno, come ho fermato io, un pitbull. Ehi, ciao. Mi ho messo... dimmi che poi dico la cosa. Ciao, comunque, mi hai sentito anche a te. Ero a Sottana di Pisa, a prendere... Allora, ero fidanzato, e si è avventato un pitbull vicino a me, l'ha fermato il padrone però. Io sono tolto la 2x21. Ah, oh, questo, tiratela! No, l'ho fatto vedere sul cane. E il padrone l'ha fermato, quindi. Vabbè, no, ma secondo me questa gente qui è sfacciata. È sfacciata perché esce col cane così, con la pettorina, sapendo che sono cani che si avventano subito, no? E senza museruola. Io dico, questi cani qui devono avere tutti la museruola, perché se ti scappano almeno non musicheggiano nessuno, invece se non c'è la museruola si avventano. Stamattina per poco io l'ho sventato qui per un attimo, l'ho giocato la banda di piedi e decido la salvata, non proprio fare la di piedi, l'ho allontanato, no, però un bel veloce gliel'ho fatto, boom, ricò il pugusino allontanato, si stava di nuovo avvicinando e Tyson si è girato perché il mio cane stava facendo la pipì sul muretto, non si è mai capizzato che gli stavano all'incontro, capito? Poi sono stati 3 ore in mezzo alla strada cercando di prendere la ragazza, il ragazzo, altra gente, se ne stava scappando e voleva ritornare a musicare a Tai, cioè te se andava a musicare lo mollo, allora mi rompete le balle su cane. A un certo punto poi ripiglia. Allora, oh yeah. Va bene, va, che sono la PC, buona serata, buon proseguo, ciao. Ciao, l'estate ci fai cucù. Ho messo la pubblicità a tuo padre, che era su Facebook che gli ho messo la pubblicità. Ah, a mio padre, a mio cugino. Sì, zio Martino, a tuo padre. Mio nonno. Martino, nonno. Invece, Battaglia è mio padre. Ah, ecco. Vabbè, ma io la conoscevo come Martino, capito? E vabbè, comunque tutti i familiari. E allora, va bene, ci sentiamo, che devo fare qualcosa al PC e poi se coincide già riprendo. Ehi, ciao T, avanti Tore. Ciao Tino, stammi bene. Ciao. È così, se grazie a Ciapiribari, sono un casino, sono senza museruola quelli lì. Beh, ma Capone ci ha visto la busciacca anche lì. E quando mi domanda, basta a tirarlo, sai, dopo che ti chiami cosa? Non ti conveniva mollarlo Gianni, lascia perdere quando vedi quei cani. Cambia strada che è meglio. Ho assistito a una cosa che non viene bene manco a dirlo. Ciao Otto, ciao Gianni, mi sto ascoltando ma c'ho gente. Che cosa hai sentito? Cosa? Cos'è che hai sentito? Guarda che stai, sono si girato a un pitti, pure una fatta per tutto l'ubero, se lo vuoi sapere. Non è un cane che si fa mettere sotto, vabbè, è più piccolo del pitti, però non è maseddo ma questo. Lascia perdere Gianni, lascia perdere, ti ho detto. Si difende ma te lo fa pezzi, te lo fa pezzi. Voce non te lo fa pezzi. Due settimane fa qua la stessa più o meno è andata così, si è sganciato anche questo, è venuto e ti hanno buttato a chi l'ha cribato, l'ha aperto in due, capito? Un pastore tedesco, non sto parlando di un cagnolino, un pastore tedesco ma grande, grande, bello, giocava sempre con Filippo, un maschio, ma una cosa spettacolare, capito? Era uno in un marciapiede e uno nell'altro, più o meno come è successo a te, si è sganciato dal padrone un fulmine, mai l'hai visto, un fulmine, ha saltato la strada, passato da un marciapiede all'altro in un attimo di secondo, capito? Quello si è messo dritto, si è girato per difendersi, l'ha pigliato da sotto, da sotto, dalla mora di Rugoddu, l'ha aperto, l'ha crepato, morto. Vabbè, non sono tutti uguali i cani. Comunque, quando si è avvicinato che stava per morsicare a Tyson stava pisciando, ma ho capito, se no le vendi andavano dietro, lo stava per prendere dietro, io come ho visto così, ho preso, ho aggiunto la barra di benedici della Sabbati. Già, ti ho capito, è l'istinto che avrei fatto anch'io, ma quel cane lì, non ci sono cani che possono capito, non ve ne è un cane troppo aggressivo, è troppo forte, è troppo potente. È un cane che se si tagranfano non ve né Taiso né Coso, un tigiano alla sua bucile. Lascia aperto. Anche Filippo si è girato a un pitbull. Si è girato però, poi gliel'ho tirato. E nel tirarlo, cazzo, l'ha agganciato sotto l'orecchio e l'ha aperto sotto. Non è facile difendersi a quei cani, Gianni. Non è facile perché sono dei cani troppo, troppo, troppo, troppo cattivi, troppo. Il cane si può difendere, ma un cane si può difendere col pitbull, può essere un del Bordeaux, può essere un mastino napoletano, può essere un alano, può essere, cioè cane di stazza oltre il cane che c'ha Mario, il presa canario, ma cani così come il tuo e come il mio, già, te lo guardi a pezzi te lo fa, no, non ce la fai a difenderti, è un cane troppo cattivo, cazzo, poverino, lacrime, me li ho farati, cazzo. Ma bello questo pastore tedesco, sono tutti i vigili urbani, sono tutti i carabinieri, sono venuti i baraccelli, quando hanno preso il padrone, l'hanno assunto in macchina, la carabinieri l'hanno portato in caserma, il cane gli hanno messo la musarola, l'hanno legato, ma cattivo, cattivo, cazzo quanto era cattivo, non vi la valdia, le magure baraccelli non muccavano, l'hanno imbosto l'uraccio. Amore e Rugoddu, musarola e addrenta lo furgone, e a lui ce l'hanno fatto in caserma. Guarda, ma una cosa straziante, straziante. Ma l'ha ucciso al pastore tedesco? Sì, ha aperto il collo. Ha aperto il collo, morto di sanguato, ha aperto il collo in due. Ma anche io la volta che Teso si stava attaccando con quello lì. Comunque Teso ci aveva, come gli aveva firmosso al pitbull, ci aveva il ciuffo del pelo e in mocca, te lo sto dicendo, l'ho tirato io, l'abbiamo tirato tutti e due. E poi siccome giocavano prima insieme e coso, è tutto successo perché questo qui c'ha un cane piccolo e il pitbull, no? C'ha sempre così solo, quelli che hanno il pitbull di solito c'era anche quello piccolino, c'aveva un pincher che abbaiava sempre a Tyson. E fatto sta che il giorno l'ha ammaiato, Tyson si è incazzato e si è tirato in alto quel pitbull per difenderlo, anche se giocava con Tyson, gli è saltato addosso, capito? E Tyson si è difeso anche dal pitbull, solo che tutti e due l'abbiamo tirato, poi non è che l'abbiamo lasciato aggazzato. È lì che te lo sto dicendo, è un'altra cosa. Uno è il proprietario, come ho fatto io, e l'ha tirato sia lui che io, però intanto con la bocca aperta, come gli ha puntato i denti, gli ha aperto sotto l'orecchio. Filippo si è girato lo stesso e l'ha morsicato al coso del dietro sedere, praticamente l'ha bucato, si sono bucati a vicenda. Ma uno è quando ce l'hai tu al guinzaglio, o per non mollarlo, tu mollalo. Ti sto dicendo, Gianni, una cosa che non ho mai visto in vita mia, mai vista. Ha saltato la marciapiede all'altra in un secondo, in un razzo, un cane che è alto, bello, grande, massiccio, un pastore tedesco, una buccia di gioca, ma non è un cagnolino, tre pattola, si è girato, oppure ho visto che gli ha aperto la bocca, questo l'ha pigliato una mora di rubù, e l'aveva fatto boom, a terra, e nonostante fosse a terra stava continuando ad andare a morsicarlo, capito? Se non l'avrebbe fatto a pezzi, per Brandelli l'avrebbe fatto. È una cosa allucinante quel cane, hai detto bene, quel cane ci vuole, quando lo porti a spasso, la museruola. Senza museruola quel cane non può camminare, ma è legge, quella razza di cani deve camminare per legge, con la museruola, non puoi portarlo senza museruola, capito? Non puoi portarlo, perché se ti scappa, ui, non teme niente. Vai Tore, dai, un abbraccio, vi saluto, buon proseguimento di QSO, semmai ci sentiamo più tardi che c'è gente, ok? Ciao, vai Tore. Ciao Claudio, come stai? Ciao. Ciao, quella. Vabbè, gli avevano detto che quelle razze lì avrebbero eliminate, ma erano solo voci, dicevano che non si potevano più fare popolare quelle razze lì, che le volevano eliminare, invece a quanto pare, quando venivano vestiti a casa, una signora che abitava nel mio portone, adesso se n'è andata via dal malumore, dal coso, c'era il cane in braccio, stava a prendere il portone, questo pitbull si è mollato dal padrone, ha buttato la padrona in terra, è andato a razzo, c'era uno yorkshire in braccio, gliel'ha preso dal braccio, se l'ha portato lontano e l'ha fatto a picco. Già, è troppo cattivo quel cane, c'è da raccontartene, li ho visti in tutti i colori lavorando fuori, capito? Cani pitbull di pastori, il pastore e il pitbull col pastore non ci fa niente, capito? Ho visto tante di quelle cose a Lucia, ma questa che ho visto proprio straziante. Vai Tore, dai, ci sentiamo più tardi se coincide. Sì, ok. No, io qua al latte dolce ce n'è uno che si sente a museruola sempre. E glielo dicono di mettere a museruola, nuda da va, non ne può punire. Ha la pattuglia dei cosi, Baroncelli, ha chiamato i carabinieri e vigili a vicinare imbucciato. Ma mio genere non lo conosci tu che abita vicino a te? Forse sì. Il figlio della buona anima di Angelo Fariniti. Sì, c'ha ecco, quello marroccia. Ma quello non fa nulla. Hai visto come cammina giù da Senza? Hai visto quante mani di sugane? Hai visto come cammina a fianco a Mario? Non si avvicina a nessun cane della Teloce, perché lo conoscono. Non si avvicina. Mario è tranquillo, non ha museruola niente, fa di giuro, solo lo guarda. E cammina a fianco, c'ha un'educazione, quel cane allucinante. Però vai vai, presenta di Grubitibur, con questo preso a Canario, vai, 70 kg di gani, che ribassa sotto Grubitibur, vai. Avevo già dei vasi giù, visto gli attenuti tratta rugabo a velosi, 70 kg di cane, 40 cm di testa, visto gli attenuti tratta a velosi. Claudio, vicino a casa un pitbull pesa 80 kg, è quello che ha ammazzato quel cane lì. Lo sai che anche una morsicata dei cani, se non solo cane, anche persona morsicata. Ma 80 kg un pitbull vuol dire che le vanno a mangiare, mangia solo e basta, capito? Perché un pitbull, io quando vado a vedere le manifestazioni, sai quanti ce n'è di pitbull, ma bene. quelli però, quelli pitbull davvero, no? Pitbull di ghisterandaggi dolcici, no? Che sono cattivi, sono quelli perché lo fanno incattivire il cane per difendersi. Ma da tagliarsi in terra e farsi grattare la faccia, se non ne conosco quando va le manifestazioni. Ma detto dagli istruttori, un pitbull bello, puro, non deve pesare, guarda, deve pesare meno di Filippo, dai 26 ai 27 kg, capito? Quindi chi ciò è? Poi me è un randaggio. No, Raul, quello che conosco io, il padre ha detto 80 kg pesa. E dice che mangia un bel. Però è una forza, cazzo. No, si è andato questo cane, cazzo, abbaiandolo. L'ha pigliato un barucco dove l'ha tirato in alto, proprio. L'ha sbattuto, proprio preso e tirato in alto. Cazzo, è una cosa allucinante. Sì, anche un battito con il cane di Mario, a Callo, che ci viene a fare. Matto. Infatti. Insomma, al mio si è avvicinato, questo che c'ho qua si è avvicinato, è cominciato a giungare, boh, basta. Ma è visto proprio così, io vengo sempre con lui, no, non gli fa nulla, mi ha detto, non gli fa nulla, stanno, giocano. E infatti io posso aggiungargli, e vabbè, andate. Tutto che cane c'ha? Io ho un cane da caccia, è bianco, però è colore, cioè il colore della pelle è rosa, è albino. Ah, e che cane è? Setter, cos'è? È un incrocio tra dalmata e come ti si chiama l'altro, che da caccia è. Cioè è l'incrocio, il nome non te lo so dire come. Me l'ha detto mio figlio e non me ne ha metto più, ma ti si chiama. Vabbè. Ma già sono vivi lo stesso, da c'entra. E anch'io ne ho avuto uno che avevo trovato a Porto Torre, già a Ponte Romano, là. E praticamente l'ho visto in una giornata di più, già cazzava più per la dirotto, un cuccioletto piccolino, un battuto fuori il cottone, sembrava bianco bianco, con la coda arricciata come il maiale. L'ho preso, me l'ho messo in furgone, e cosa facevo? Si ricudì pure. E l'ho portata a casa e mia moglie, no, mamma mia, come facciamo a tenerlo in casa? Le donne, sai come sono. Poi si è affezionata e fino a quando è rimasta incinta, poi praticamente l'ha dovuto dare quando ha partorito perché se ne entrava nella culla con la bambina, la leccava e cose, l'ha vista una volta lì e non le è piaciuta la storia, l'abbiamo portata in campagna da mio cognato e andavamo a trovarlo lì. I cani sono tutti belli, non c'è da fare. Billy ha un pitbull, lì c'ho 80 kg, o lì c'ho che si stava avventando a Taiso, ma attaccarsi con l'altro che va a Mario, col pastore del Caucaso, che va 8 mesi e pesa 40 kg, va. Billy ha attaccarsi con quello, non va a sbassare un macchino, ma lui è contrario, infatti hai visto che quello grande che c'ha è abbastanza giocherellone, è importante che non le dai fastidio, che il cane non vada a rompere le palle, perché se ti sia ti attacca un gabbo, dopo la zampa in alto, ti mette la zampa sopra, non ti muffi, capito? Da mettere le zampe sopra, Mario è più alto di lui, sopra la schiena gliele mette le zampe, lei è 1,80 Mario, non è basso, è un gonto, capito? I cani sono tutti belli, però bisogna sempre rispettarli. Io sono contrario, ne ho sempre parlato di queste cose quando vado alla manifestazione. I cani aggressivi devono essere praticamente usati diversamente e messi in un'altra categoria. Quindi tu c'è un cane aggressivo, quella è la tua categoria, come il Rottweiler, il Pitbull e tanti altri cani che ci sono, ok? Mugiarola, se io ti vedo senza mugiarola il cane me lo porto via. Cioè ci deve essere più controllo, perché non è possibile. Anche l'altro giorno stavo leggendo nel giornale, torna un Rottweiler, l'altra volta un pitbull, hanno azzannato una bambina, hanno azzannato un uomo camminando nella strada. Ma, cioè nel 2018, quasi 2019, dobbiamo sentire ancora queste stronzate, ma non esiste. Infatti è così, bisogna stare lontano da questi cani, quando si avvisare il padrone di mettere la museruola, però non la vogliono sentire. Invece mettitela tu la museruola, no, ha detto, quelli devono avere la museruola, se no non da va. Purtroppo ho impiattato l'anno specialmente. Dice un luogo di randaggi, Tore, un luogo di randaggi, lascia perdere, è un luogo di randaggi. Come adesso si stanno abituando questi signori tossici con i pitbull, con i rottweiler, addirittura ne ho visto uno, dice Umaro, ancora più Umaro il pitbull, che hai detto poco fa tu già, col dog argentino. Camminando in piazza dei Segni senza Musaruola, lunedì al mercatino, c'erano un paio di vigili, amici miei, gli ho detto, ma quei signori, li abbiamo visti, li stiamo controllando, perché dice che rubano anche, no? Capito, qua su c'hanno i cani e rubano, ho detto attenzione perché quei cani sono cattivi, e già lo sappiamo, non ti preoccupare, mi ha detto che come ci muovono sono fulminati, capito, nel senso gli avevamo l'abitudine a busciacca, vabbè. Comunque il dog argentino com'era, bianco era più caso. Sì, sì, bianco con gli occhi rossi che pareva cazzo un serpente. Non sarà che c'è di Bolsudorra, no? Con la tutta tatuata. Tutto tatuato era, c'è una giornata di caldo, era maniche gote, tutto tatuato, va via, vista che lui è tatuato. Tossici erano, prima non si vedevano che erano tossici. E ma ce n'è una che sta sempre, sai, dopo dove c'è uno spin, sta sempre lì, tatatata, che il portatore si è magra magra, una ragazza e un ragazzo, tutti e due con questo cane qua, insomma. E praticamente stanno sempre lì. E una volta mi ha chiesto un passaggio, se la portava al portatore, gli ho detto, già sai tu che ti muoio con un cane dentro la macchina. Poi, stavo ero da uno spin, mi ha chiesto se gli davo un passaggio a portatore, poi non ci sta andando a portatore, gli ho detto, sono in figlio, non sono andando a portatore. Oh, via. E comunque l'ho vista su Facebook, quella fotografia che hanno messo di Porto Torres quando tu non l'hai conosciuta sicuramente, c'era l'attore aragonese e a fianco c'era un caseggiato grande, prima di fare il porto e si vedeva il mare, tipo l'Arenaretta rimaneva così. Già, non lo conosciuta, c'è guardato io in Chivi, eh? Andate a maciuppare in Chivi, mi dice a me, non l'hai conosciuta, l'attore aragonese non l'ho conosciuta così, io no? L'ho conosciuta veramente a Torre Aragonese, tutta in fredda, tutta la marinella, tutta la parte dello scoglio lungo, mica era così. Se abitavo io lì, mamma, abita lì dietro, certo che l'ho conosciuta. Era meglio prima che adesso, ci credi? Era molto meglio prima, quando a fianco alla torre c'era quel caseggiato, poi dietro c'era la spiaggia con il mare, si vedeva, anche se poi hanno fatto il molo, lì hanno rovinato tutto quanto. Potevano pensare a fare il molo prima a Moloasi direttamente e lì lasciarlo così, era molto più bello. Io da ragazzino ho lavorato con Antoine dentro il deposito della Shell, tutto il muro che costeggia praticamente dove c'è la rotonda per girare via Principe di Piemonte, tutto sino allo scoglio lungo, lì c'era tutto il muro e all'interno c'era il deposito della Shell, capito? E lì dentro poi, una volta che il deposito della Shell è sparito, hanno fatto officine, carrozzerie, eccetera, c'era l'elettrauto, e io ho lavorato lì dentro anche, a Pizzino con Gavino Gaspar, capito? Che c'aveva l'officina di elettrauto, quindi la conosco tutta benissimo quella zona, l'hanno solo rovinata, fa schifo, non solo schifo, infatti il portatore se non piace più rispetto a quando io ero ragazzino, capito? Vabbè dai raga, che mi sta chiamando che c'è, che qua, meno genio, devo vedere alcune cose, dai. Ciao Gianni, divertitevi, buon proseguo di questione, ci sentiamo. Sono intervenuto perché ti volevo raccontare proprio di questa cosa che mi ha ricordato Mario, ma guarda, allucinante. Meglio non vederle più, guarda, non vederle più, perché c'è questa una bieta Mario. Infatti non hanno messo niente, non hanno scritto niente, nessuno sa niente, proprio roba di quartiere, perché veramente solo a descriverlo è una cosa allucinante. E ancora tutto il marciapiede passato una ghetta, ancora si vede la cosa tutta del sangue. Mamma mia che schifo, guarda. Una cosa così schifosa da vedere non ho mai visto in vita mia. Riprendi tu, sentiamo dopo al limite, ciao. Stai attenti a questi che hanno i pitti buoni, chissà se gani i mammi, che bisogna dirglielo di mettergli la museruola. Ok, gli doveva chiedere di rispondere, e poi dirà dura la museruola. Ha detto, bre potente se vende, hai detto a vedere. Lì vicino c'erano i barroncelli, chiamati carabinieri, vigili, servi di poco di niente, lì a Trento. Sono arrivati i carabinieri perché l'hanno circondato, capito? L'hanno circondato gli amici, il padre e un sacco di gente di questo ragazzo che ci ha fatto il tedesco, ma tu devi vedere, una cosa spettacolare, bello bugiardo da reddo, ma c'avevano una linea camminando col cane, io quando lo vedevo mi fermavo, con Filippo si annusavano, non è che andassero molto d'accordo, però non si sono mai così tranquilli, perché sono due maschi, quindi non è che, capito? Però l'hanno circondato, ecco, si è bucato subito, abbiamo visto la volante con i lampeggianti e l'hanno immullato, l'hanno preso e l'hanno messo dentro la macchina. Sì Gianni, l'hanno portato via, però non lo so, devo chiedere a Ivan a vedere cosa è successo. So che l'hanno portato al canile di Osio ed era al canile di Osio, lì dove custodiscono i cani, proprio quelli che ritirano, che fanno queste cose, poi decide la giustizia quello che deve fare, capito? E quello ha fatto la denuncia qui, non so com'è andata a fine, ma se sento Ivan ti faccio sapere. Che succede a quello di quell'amico mio che è andato a Milano a prenderselo un cane che figlio di campione l'ha pagato 1500 euro, un fattore tedesco, l'ha preso già di 4 mesi, dai, già un po' grandetto, ma quello lì costa 1500 euro, c'ha pedigrigia, tutto quanto, figlio di campioni, eccetera, figurati, ma il pastore tedesco non è masetto, già si sa difendere. Sto dicendo, l'ha cremato, si è girato, l'ha preso, anche quello là era un po' aperto sotto, però già, è il pitbull, non è un cazzo, è un cane diverso, è un cane che nato per combattere, un cane, non lo gioco, diciamo, la giustiva. Prezzo, ho pagato 1.400 io più lo suo caramento, mi è venuto intorno a 1.600, l'ha comprato Mario dall'Olanda, da Filippo, i prezzi dei cani di razza sono quelli, con pedigree e tutto, però a parte il prezzo, è una cosa che ti rimane, capito? Non c'è un cane affezionato come il mio, come il tuo, come questo ragazzo che cattura ben niente a Gogo, Paviani, qua, no, ti sto dicendo una cosa straziante, veramente straziante, l'abbiamo preso, nulla va, infatti gli abbiamo messo un lenzuolo sopra, attesa che arrivasse quel furgone giallo è venuto che porta dog sitter, quello lì, l'ha portato al cimitero dei cani, capito? Perché era una cosa come se avessero calpestato un bambino, la stessa cosa. Poi devi mettere la lucina lì, devi pagare anche 100 euro per bruciare. Già, non so che è successo, l'importante è che hanno portato via subito, si è chiuso lì tutto, perché stava diventando una cosa brutta, ne farà di tutto il quartiere, ma ragazzi, per tagliare le case popolari che ci sono su, capito, ne farà di tutto il quartiere, ne farà di uno, tu grosso, tu d'attuato, indietro su miserabile, della dentro alla Jeep, perché è arrivata la Land Rover, capito, dei carabinieri, deve essere la zoofila, non so chi era. E invece la cosa, non si chiama, quelli che hanno il cane, quelli sono arrivati, perché pensavo di dover portare via il cane, invece è arrivato a casa loro, sono arrivati i baraccilli con la camionetta. Vedete, si rubiglia lì su, io gli aggrettiamo, indietro, meno male che era chiuso dentro la macchina. Vabbè, ma il padrone magari, diciamo che l'unico sbaglio che ha fatto era mettere la museruola, però io ho visto quel cane che si chiama Raul, l'ho visto buttare in terra la padrona, togliersi di quelle museruole, di quelle strip strap, ce le presenti, se l'ha tolta, se l'ha aperta, ha aperto il muso e l'ha stracciata e è andata e ha morsicato un cane, non riuscivano a toglierlo da addosso, ce l'aveva stretto e non riuscivano a toglierlo, uno gli ha messo anche i fiammiferi delle palle per mollarlo. Non ti molla, non ti minuta su Gani, no, non teme niente, già, non teme niente, assolutamente non teme niente. Non teme niente, purtroppo è così, no, non ci voglio pensare perché succede a me una cosa del genere. Io. Faccio l'aereo. Cazzo è faro, ora bisogna guardare, Gaiaparo, Carica. Non lo so come mi prende. Non lo so. Meglio, non ci pensiamo neanche. Lasciamo andare le cose come devono andare. C'è la giustizia e ogni cosa devono intervenire loro, che forse è meglio, perché se facciamo tutti fai da te ci ammazziamo uno con l'altro. Va bene, dai, non riprendo più. Ciao Tor, riprendi. Senta, senta, non fai il discorso. Giulia. No, poi se succede a me non lo gioco, non lo so come posso reagire. Cioè per me il mio cane è come mio figlio, non lo so cosa può succedere, capito? Come quello, te lo ricordi quello che c'è stato in giornale che ha strangurato il pitbull, ha strangurato e l'ha ammazzato. Rottweiler, vabbè, quello non so cose che non si fanno. In quel contesto lì, Tore, purtroppo lui era incazzato perché ha morsicato questa bambina, capito? Quindi in quell'attimo lì si viene la rabbia, ma non sono cose da fare perché quello la prende buona adesso. Non è a più grande gioia, tu lo puoi strangurare. Poi vedo, bellissimo, ciò che è stato realizzato dopo è il bello, capito? Perché questi giornalisti sono dei grandissimi miserabili, sono da ammazzare loro. Non puoi fare la foto di un cane ammazzato e metterlo nella Nuova Sardegna. Sì, un grandissimo pezzo di merda, non si fanno queste cose, capito? Deve stare tutto nel silenzio, perché noi già c'era un giornalista, ha detto mi non fare fotografia, ma cazzo che mi sta con un godo, lascia stare tutto così, non fare niente. No, era giusto per, no, giusto per, lo fai a casa tua, qua vai, anzi va una cosa, vai, avviati, ce l'abbiamo mandato, capito? Perché non sono cose neanche da far vedere, un cane morto così, strangurato, e strangurato lo vecchio è un badrò. Ma più che altro devono uscire sempre con la miseruola, però noi chi sa strappo, che non vivo chi sa. Avete parlato in due, cosa hai detto tu? Perché non ci vuole la miseruola a strappo, cioè il giorno lui aveva messo la miseruola, l'aveva vietata di morsicarla pure la bambina, e noi abbiamo truggani. Sì, ma infatti le miseruole a strappo, dette proprio dal baraccino che stavamo parlando, non sono conformi, praticamente non servono a niente. Cioè la miseruola quella con quella che si usa veramente, che si mette sotto, cioè come il guinzaglio, e si mette sotto il collo, capito? Ci vuole quella lì. Ci sono in vendita e ci sono, siccome quella lì costa un bel di soldi, invece quella strappo costa 10 euro. No, tutti stanno comprando quella, capito? Ma non è idonea, quella non va bene per il cane, soprattutto quel tipo di cane, capito? Io ho quella gabbia, quella che ho comprato dai cinesi, non l'ho pagata più di 5 euro mi pare, però va bene lo stesso. Vabbè, tu hai comprato dai cinesi 5 euro, ok, però è sempre quella gabbia, se vai a comprarla da casa degli animali la paghi 15, la paghi 20, la paghi 25, dipende dal cane, dalla misura del cane, capito? E come è fatta, perché sono quelle in pelle, belle grosse, belle, dipende dal cane, uno vuole tutelare il suo cane, ecco, deve usare le cose che la legge dice, no pigli, allora io piglio un pezzo di cazzo, atto, e ve la faccio io, il buon rugoso che su strappa e vinci, piglio un cazzo, ve lo reoga la Musichiri e esce Grugani, quello lì è un pezzo di straccio con il feltro. Sì, ma poi il pitbull c'ha una forza nella mandibola, ti sto dicendo che a quella ragazza l'ha buttata in terra e si è tolta la museruola, è andata e ha morsicato quel cane, l'ha fatta a pezzi, l'ha tutto quanto morsicato, poi l'ha stretto al collo e non riusciva a mollarglielo, lo stava strangolando stringendolo al collo, capito? E c'ha quellino lì, il pitbull, il dog argentino, quel cane lì, c'hanno quello, capito? Dimmi di amore, non godete i testini, ma è strangolato proprio, siccome c'ha denti un bel grossi, ti bucca e t'ammazza, quello. Se ti piglia la gola ti buca e t'ammazza, come un cristiano, no? Se ti punge alla gola è chiaro che muri di sanguato, lui si è fatto rugare, capito? Ma in un attimo è morto, vabbè, lasciamo per, non ci voglio pensare, riprendi tu, dai, a dopo. vabbè. Noi, vabbè, di questi cani bisogna stare attenti, infatti quando esco con il mio sto attento io che non sia chi di guatti dolci, Dorra, speriamo che vi raggia in sequestrato. E bisogna stare attenti, bisogna stare a questi qua. Ma chi è un tipo che ce l'ha bianco e nero, che è ricciolino, che lo avevano praticamente implicato in quell'affare, che aveva implicato anche un anziano, gli faceva nascondere droga in casa sua, eccetera? No, non quello, quello è un altro. Quello è un altro, ma mi pare che abbia già sequestrato un cane, adesso. No, questo era un altro, è tra il marroncino scuro e nero. A chiazza nera e marroncino scuro rimania. Comunque sono pericolosi quei cani. Ma io avrei fatto una cosa, se la legge la fai, la fai per tutti quanti, di modo che se tu al cane gli metti la musellola, perché ne la metto io la musellola e l'altro non gliela mette, e allora così penalizzi il cane tuo, perché l'altro va a musicare, non si può manco di finire. Infatti, vede, io il mio le cose, le biglie, tutti quanti si avvicinano, accarezzano, le lecca e fasi. È proprio no, pure dimmi dei minori, dimmi. No, il mio diciamo che va a pelle, secondo i cani ci gioca anche con i maschi, e secondo i cani invece è proprio, i cani da caccia non li può vedere, quello è scontato, nei cani da caccia né quelli ricciolini tipo, non barboncini, tipo Yorkshire, però quelli incrociati, dai, quelli grossi, che sono più grossi dello Yorkshire. Ti ho capito. No, io che facevo già con le piace, già che le piace di più le femmine, non riesco a capire il perché. Anche il mio è così, prima le fa di giocare, dopo li brinca, li brinca in alto, ma se ci sta, oh yeah, è già fatto così, ma è come il padrone. No, ma vedo le ragazze mie, le ragazze, le signore, ecco, andando subito a... deve darsi... non riesco a comprenderlo. Se vedo che qualcuno maschio che è, non si avvicina, però secondo la persona. Però alle donne si avvicina subito, e ha compreso un bagoglio. Anche il mio fa così. Perché siete certi odori particolari. andiamo. Per dire, il mio, se una donna c'ha praticamente le mestruazioni, subito l'odora lì. Anche questo fa così. Lo sente subito lui e si avvicina. Infatti, vedete, un bel femmine, Giammani Garri, che non si può passare in un edo. Sì, fa così. La una addirittura se ci attaccava la gamba e se la vogliamo. Io, questo era sempre... O se no, quando uscivo con lui e la lupa appresso. Avevo anche la lupa per 10 giorni. Mi va zia una beffa, mi va zia. Passa la tedesca? No, cane lupo. Però questa era femmina, se te la vedi è bellissima. Mi ce l'ho la settimana scorsa a Cossuine, perché ce la tengo lì, me la stanno tenendo. Perché tu di Cossuine? No, di Sassari sono io, e mia figlia con il ragazzo che ce l'hanno comprata, ce l'hanno portata a Londra. A gennaio mi ho dovuto andare a Genova a pigliarle tutte e due. Perché a Londra sono più severi e non vogliono che diano fastidio ai cani, infatti per la vita era alterata, non voleva vedere i cani in casa dell'altro. Ma cos'è, un cane belga, un pastore belga, che cos'è? Il lupo presente ce l'hai, proprio uguale, solo che cane lupo questo, proprio la razza sua, proprio è mansueto, è proprio addestrato e tutto. Sì, ho capito. Quello che rimane tra il marroncino e il grigio come colore. Questa è bellissima, è fatta proprio, che se la vedi. Infatti c'era un sacco di... a Londra la prendevano per coso, la prendevano per volpe, ha detto catta la volpe minorita, e dice manna, già si vedi. Eppure una volta c'era, non so se te lo ricordi, un tipo tanti anni fa che girava con la volpe a guinzaglia in Piazza d'Italia, non l'hai mai visto? Sì, E infatti ad Abuja hanno detto cosa, che non si poteva portare quello a guinzaglio. E hanno detto cosa, gli hanno detto a quello lì. E ho conosciuto chi ce l'aveva. Nanni. Ehi, dimmi. Mi ha detto Mario che non è né husky né pastore tedesco. Sono delle, dei lupi, proprio lupi. Sono quelle categorie proprio del lupo dei Pirenei, capito? Io penso di conoscerlo, ma sai che ce l'aveva uno così? Ce l'aveva Simone De Lupo, il fratello di Rubi, uno così, femmina, un lupo così. Ma quello di Coggio, di ho capito, sì, perché abitavo io. Già, però era più, si assomigliava molto di più all'Aschi, quello vecchiatore, sta dicendo Mario, l'ha visto, non è un, è un lupo dei Pirenei praticamente, capito? Sono molto rari, è una razza molto rara, molto costosa e sono anche cattivi come i cani, dipende sempre dal padrone. Questa che ho io è molto brava, e Fuglia, è bravissima, infatti con i bambini mi ci giocavo parecchio. Ma tu ci vai un pezzino minore, quando vedi a Mario Urugani, quindi un pezzino è lo buono in alto, intanto non si muggia nei ranchi, e lo porta, se si mantiene, tu cammina a fianco a Mario con un pezzino in alto, fa troppo ridere quel cane. Già l'ho visto, sì, molte volte, con i ragazzi che ci giocavano. Viene qua sempre ai giardini, lo porta. Sempre ai giardini sguinzagliato, lo conoscono tutti, tutti. Quelli invece che portano i cani lo tengono a guinzaglio, capito? Se quando ci aveva Filippo non si poteva vedere, Filippo ribassava sotto, non morsicava le gambe, lui stava fermo perché si accorgeva che il cane era piccolo. Capito? Però poi quando l'ha incontrato da mano era muscigato, si è girato, capito? Subito Mario ha dato un colpo, ha detto non ti permettere mai più di toccare Filippo, è un cane molto, bisogna stare molto attenti, che si ghiscia di fare la bubù a vero, va bene, vai, capito? Già è una lupa dei Pirenei, c'è il lupo e la lupa dei Pirenei, sono molto molto rari. Altro è molto bello Mario, no, è bellissima, è uscita molto. C'è la madre che mi adesso, ieri ha fatto i cuccioli, la madre di questa lupa qua, ha fatto i cuccioli, ha fatto, e non so se riesce a tenerli tutti, ma perché c'è poco latte. Ah, comunque è bellissima. Cicosovacco, il lupo cicosovacco. Sì, mangia, è molto bella quella, molto bella. Non l'ho visto. Ho visto da Monica l'altro giorno, ho visto il pastore del Caucaso, però è diverso da quello che c'è a Mario. Molto, molto bello, bianco, tutto bianco bianco, con gli occhi marroni, scuri scuri, isci una zampa si butta, mamma mia quanto era mano, isci una via. Infatti non ci stava nel coso sopra la Monica, non so se è mai andato dove mette a asciugare i cani, lo stava asciugando per terra col fondo puntato sopra, questo anche era mano, io mi piaceva tanto a chi aveva asciugato. Va bene, dai, riprendi già, sono in ascolto. No, mi sento un attimo che mi è caduta una cosa. Io invece vi devo lasciare perché devo andare a prendere la signora da mia figlia. Ci sentiamo dopo, come torno, se siete ancora qua. Ok, ciao. Dove? Ciao, ciao. Chi è che mi sta chiamando? È più forte, buonasera a tutti. Uscendo sto dove? Sì, abbastanza bene. Sì, ok, dai, continuo. Cosa parlare? Il filo interrotto c'era. Plafonato io. Andà bene. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, se ci siete. Sì, dai, saluti anche gli altri. Buonasera a Claudia e Gianni. Buonasera a tutti, scusate, ma mi è caduta roba in terra e dovevo raccogliere lassù. Sore, e beh, tu dici che? Che mari? E tu sveglio sì. E che facete? No, io ero a fare la spesa. Ah? Che io ero a fare la spesa. Ah. E anch'io sono uscito a porcarsi. Mi sono preso 12 sacchi di pellet dal capo. Così che sono rientrato poc'anzi. Ma in campagna, allora. Abbiamo fatto un po' di mandarini, buoni, Clementini. Buoni, insomma. Ma ancora da me non sono buoni, là. Ancora no. Sono verdi ancora, gli agrumi, gli aranci stanno cominciando a ingiallirsi. Ma gli altri mandarini e mandaranci ancora non sono tutti verdi, sono più tardi vengo da me, dai. Sì, amico. No, questi qua sono buoni, Giovanni, va. Buoni, proprio ultimi. Di dove sono? Lì a carica. Ah, da voi, dalla tua ragazza. Campagna del padre, dai. Secondo la zona. Poi ci sono quelle che vengono a prima, quelle che vengono dopo, capisci? Sì. I cremicini cominciano a essere buoni adesso. No, ma adesso sono tutti verdi, capisci? Per cui ancora. Nemmeno gli aranci, se ne parla a mese entrante. Guardi, sono una bontà, brava. Ma anche i melograni sono buoni. Cari chicchi, rossi, dolci. Se posso, adesso i melograni sono tutti buoni, capito? No, anche io ne ho qualcuna, però sono buonissime. Da mio genero, cazzo, ci sono tre alberi, cazzo, basta, pieni, hai faccia dura, cazzo, ma è una cosa strana, canto di buoni che sai, puri, cazzo. Però stanno cominciando qualcuno a spaccarsi, infatti l'ho detto, quelli lì buttano in terra, perché se no, cazzo, si rovinano, Se fa per l'acqua, si marciscono e non servono più, invece adesso, che sono cominciando a aprirsi, togliere e se li mangiamo, è già fatto così. Ma vabbè, diciamo che ha un albero contro le entrate. Ma poi è proprio alle mie mani lì vicino all'entrata dalla casa. Sono belli grossi, ma sono anche buoni, perché ha altri alberi che sono leggermente più piccoli. Sì, secondo la razza e poi secondo anche il punto dove. Perché secondo i punti escono grossi, secondo i punti escono piccoli, capito? Anche quelli sono, capito? E poi tante qualità ce ne sono. Però l'importante è che siano luci, quella è la cosa più importante, capito? Poi le melograni sulci sono tutti luci, dai. Più o meno sono così. Sì, infatti. Ma non si è fatto sentire nessuno, Dio Mario. Ah? Ho detto, non si è fatto sentire nessuno. Aspetta che ha fatto strappo, prova. Mi stavo facendo un aspettone, però c'era Claudio, c'era Gianni, c'era Tore, capito? Poi è entrato anche il coso, Cino, però stavo facendo una persona perché si mi è rovinato uno, allora ho dovuto rifare, sono sceso in magazzino e ce l'ho il capo e me la so fatto. Già c'erano, però hanno chiuso, dopo ho richiamato a Tore e non c'era più. Ma era stato della lavoro. Senz'altro. Gli altri si vede che hanno chiuso, però li ho lasciati che stavano parlando, quando sono salito non c'era più nessuno. Magari saranno inzapparati anche gli altri, ma qualcuno prima delle 8. Tore senz'altro è andato a prendersi la 50 e rientrerà magari più tardi. Bacchisio, senz'altro ancora sarà in garage. Ti aspetta, lo chiamiamo. Bacchisio! Portante! Vedi adesso? Adesso sì! Buonasera, Gian Maria, buonasera a Luca. No, sto terminando quel lavoro di ieri, ti ho detto. Va bene, va benissimo, tu allora senti a... Ciao, buonasera. Buonasera, no, era quel filo interrotto, Jean-Marie, il filo che portava la corrente della batteria alla basetta. Come ho detto io ieri sera. Sì. Infatti ci ho fra le mani perché l'ho puntato, ma adesso devo terminare. Vedo un po', ma certe volte vedi, tu magari, proprio a quello magari non ci ha mai pensato. Ah, io dopo ci ho pensato, perché cazzo, se il microfono normale va bene, cazzo, hai preamplificato l'orecchio con la batteria nuova, fino a quel filo di solito quei fili si distaccano, capito? Oppure c'è qualche filettino attaccato, magari a un momento si tocca, ma ce lo tocca, capito? Già era quello, allora vedo un po'. È meglio sempre sapere queste cose, ma chi? Io non ci ho pensato anch'io perché non mi dava corrente, ero interrotto in quello spettone lì. Mancava la corrente in 10 cm di filo, dunque o la soldatura oppure c'è qualcosa all'interno. Infatti l'ho aperto con la Gigino lì e era tutto oscillato e il filo staccato. Cos'è tu? Certo, sta tenendo giù un altro, è arrivato la ricerca. Attenti, Lu, attenti, d'accordo. È così, ma chi, vedi, certe volte si pensa. No, me l'ha fatta anche a me una cosa del genere, capita? Non riuscivo a capire perché, cazzo, il microfono nuovo, cazzo. Evidentemente come l'ho tirato, se disse che non era saldato bene, non riuscivo, ecco, c'era portato e basta, no, l'ho portato. Però solo che faceva quel difetto che faceva a te, a momenti si usciva, dopo un po' secondo come lo muovevo si distaccava e non usciva. E così, ma almeno hai azzeccato e sei a posto adesso. È posto. Era quello lì il malanno che avevo. No, perché è più comodo questo qua, capito? Invece qua deve stare chi la che si tira, invece sta appoggiato e più pratico. Vabbè, me l'aveva fatto il Bidra 500S, mi sembra che era. Mi sembra, o l'ala. Quello lì me l'aveva fatto. Avevo messo come si chiama, il Prozel. Non uscivo, che ha portato uscivo, ma attende per un gap. Ma se no ci pigliate in mano, non manco 50 miglia voi. E dopo ci ho pensato, sta a controllare. E ho controllato e non c'era la corrente. Ecco perché. E allora per quello. E già l'ho trovato il sistema, dopo ero accantonato. Se sono d'accordo con i microfoni, però non attacco più per amplificati, ma io chiedo tutti, però non ne attacco più per amplificati, perché di subo con i amplificati, mentre invece con il normale sono tranquillo, capito? Non penso che di subo per amplificato, non mi ha detto mai niente nessuno, non mi ha mai detto, nessuno si è lamentato in zona. Ne ho parecchio in quel manuale, il mio manuale mi sembra che abbia 3 o 4. Ultimamente ne avevo preso uno di quell'americano, quello a Sassi, quello rosso, anche quello c'ho. Lo usavo con questo apparecchio, lo usavo. Però adesso invece l'avevo tolto e è dentro la scatola, sto usando il microfono su. No, già va bene, già mi sento ugualmente, capito? Sì, io già sto uscendo bene, esce bene, esce. Quello rosso è il Saverio, sai? Prova a parlare adesso. Quello microfono rosso che è un Saverio, sai? È il Saverio, ne ho due io, è Saverio appunto. Io ho anche 2 MB+5, 1 MB+4, poi ho l'esaletta Master Pro, quello tutto in plastica che c'è il collo che si ammassa e si alza, anche 2 di quelli ho. E un altro micro, poi io cos'altro ho? 2 di M600, l'Instac M600. Che quelli c'hanno anche l'eco, per dirti no, voglio il microfono va giù, però ripeto, no, non c'è, neanche non c'è posto, anche per quello, perché non si è a posto, invece con un manuale in un angolino lo metti e sei a posto, capito? Sì, posto, sempre così. No, io sono pensato a quei coglioni, è voluto, è levato. È un periodo che non lo stiamo usando, ma hanno chiesto se prestamelo. Prestato e non più ritornato. Io, quel ma, salvezza Marte, no, aspetta come si chiamano, no, non quelli che hanno il tasso rosso, dunque, l'altro tipo, quello tutto in pratica sono, che c'è il coro che si ammazza, come si chiama che non mi ricordo, oh, sono qua lì, adesso non voglio alzarmi a guardarlo. Ho capito, che è rosso col collo che si ammazza, con il microfono flessibile, e c'è lo strumento, sa. No, è piatto, è largo, il collo è piatto, diciamo, è 2 dita e mezzo, lungo, è, capito? È, si abbassa e si alza, proprio si abbassa fino al piatto del microfono, capito? Ehi, ma capito, c'è lo strumentino con lui o no? Aspetta, ti dico subito come... Insomma, è salvezza, però ha un altro nome, aspetta, A chi? E io devo morire. Ah, ma non mi ha messo di fare la dimonio, la dimonio, sono tutti due imbonicati, hanno detto la buccia e non mi ha messo di dire, allora so che sono in magazzino, di no che non te la giudichi, so così, ecco, come quello, no, Master Plus, Bruce, boh, una cosa del genere, però sono tutti in pratica, sono, c'hanno lo strumento, un equalizzatore e uno strumentino c'ha. E però con il microfono c'era un difetto, si rompevano le lamelle del tasto. Queste mi sembrano solo alle lamelle, non mi ricordo come sono, uno l'aveva aperto a vedere come era dentro, però non mi ricordo, è piatto, rimane piatto, e poi il collo dove c'è la capsula è lungo, saranno 25-30 centimetri, che si abbassa a proprio a piatto del microfono, capito? È bello, con il microfono è bello, ma qua sono la marca di quattrino, l'avevo comprato anche dalla GBC molti anni fa a Vittorio Luna Rossa, l'avevo comprato lì qui. E allora c'era la lira, ho comprato 250 mila lire. Adesso io avevo preso uno nuovo e uno usato, ma uno usato l'ho pagato 120. Ma è nuovo, sono bellissime, c'hanno una radio, Giulio ce l'ha precisa ce l'ha Giulio. Io ho riparato questa verde perché si hanno rotto le lamelle, ma detto, se porta la moglie te lo guardo io, e me l'hanno riparato lui, l'altro era nuovo, però uno l'ho prestato, l'altro non so se che mi ha fatto, ma deve essere arrivato anche quello lì. E quello lì è partito, non è più in cosa, a Sassari, è in paese, quello lì siamo portato via Gianna, siamo portato via, perché mi ricordo uno l'avevo prestato a lei, perché c'era il baracchino che c'era la tavola mia, e l'altro non ricordo a chi, non l'ho visto né uno né l'altro, sono andati in cose in ferie. E uno dell'altro. per carità. Anche che ce la siamo di microfono, vai via. C'è più compariccia a Dio. Ho preso anche quello grande professionale che sa fare anche l'equalizzatore, l'aveva poco, tastiglia, ma no, le venti, cazzo, l'avevo dato a Luca, l'avevo dato, cazzo, quello l'ho pagato, 250 l'avevo pagato, ma c'aveva anche il compressore, quello, l'equalizzatore, quello lì, capito? Faceva tutti i fibri che volevi. Sono rientrato, Ci sei arrivato. No, io ho dato un microfono americano a cosa? Al vicino di casa tua, come si chiama? Dove c'è la impresa? Là il cognome fa. 5, mi sembra che si chiamava la frequenza. Ehi, troppi me ne... a me me ne sono passati troppi in mano. Ma prima, però adesso non lo... uno lo dà tattore, che era nuovo, cazzo, già lì funziona bene, vero so. Buonasera comunque. A me la sgudra tenne. C'è per il nuovo. Era nuovo, perché già l'avevo traccato io. Perché stavo magari 2 o 3 mesi ce l'avevo, ma poi non lo... ne avevo 3 o 4 di questi MDP5 e li ho dati, capito? Adesso mi è rimasto solo uno, me ne è rimasto uno l'MDP5 e uno l'MDP4 mi sono rimasti di quelli lì. Poi il resto ne ho appena applicati, certo. Quelli due che stavo dicendo è Zavetta Master Pro, che sta tutto in plastica, ma è bellissimo il microfono, è bellissimo, sì, c'è anche l'eco. E qui c'ho l'Esavetta con gli altri normali, due, per applicare per la base, sì, anche quelli, uno mi ho dato e uno ce l'ho. C'ho anche 2 MPU 600 dell'Inter, che anche quelli c'ho, e manuali l'avevo 3 o 4. Avanti, signor, come mi occupi stasera? Abbastanza bene ti sento. La capsula quale ci hai messo? Quella piccolina? No, la capsula sua ci ho lasciato. Era il filo che dovete non dava corrente. Che non arrivava corrente sufficiente alla basetta. L'ho aperto ed era mezzo staccato. Allora l'ho tagliato e l'ho messo cambiato. Fatto. Allora era tutto da quello lì era. Vuol dire funziona bene, va. Sì, quando funziona quando lo prendo la parte. Però andiamo a riposare. Ma se non la veglia l'avevo detto io, non ci ho pensato nemmeno Bacchigio. Invece ieri ce l'ha visto. Gliel'ho detto e ha controllato se già era quello. Perché mi sembrava strano, ragazzi, perché un microfono normale usciva, era amplificato e non usciva. Ed era quello lì che il filo toccava perché era interrotto l'attacco della batteria 9 volte. Infatti. Quello lì era. Bene, signor Bacchi, riprenda. E prego gli affari, provati lì, bene andavano. No, non ci sono mai andato io. Devo andare nel garage, devo andare per provarli. Ma prima di andarceli me li vernicio, li faccio proprio del coso. Li faccio proprio belli. Proprio perché non noti, no? Vernice allora, se no ti piglia la Romandia. Ma ce ne dovete, non c'è nel coso di verniciarli, mi acciaio ossidabile, quello non si riunisce mai. Cos'è? Che date un troppo nel luce. Ma c'è cercate cosa hai tu qua presso. Allora ti piglia in tutto, no. Quando stacchi la targa stacchi anche quelli. Facciamo così. Non vuoi che te ne preghino. Se no, mi metti il lucchetto. Certo, lucchettare dovevo. Sogna che c'è un buon lucchetto. Stiamo fregando i 2 polloni, già morito. Tu, mi raccomando, mi ha fatto l'improvvisata, sto mangiando un macchisio. È rimasta contenta almeno. Ma chiamato, vieni, che c'è una cosa da darti. Un grugane, ero vicino quasi alle piscine, so che dovrei andare dove arrivi a garage. La filata mi ha dato che 2 cose, che ha fatto, ma che mi ha salzato. Toccata, non me la gettavo e mi rifate tu. Vista. Parola, così bisogna essere. La parola deve essere fedele, vero Marchi? Ma non gli ho detto niente, lui gli ha fatto così, senza sapere nulla lui. Siccome si stava lamentando, un pollone qui, un pollone là, io in garage c'avevo il pollone acciaio ossidabile. la parte d'acciaio rotonda ce l'avevo in campagna, e ho tagliato e l'ho saldato, l'ho saldato anche il corpo, ho messo in acciaio inossidabile, dunque tutto il pezzo è in acciaio inossidabile. Ah, già sei capace bene a saldare, ma che tu, almeno tu no. E già saldo sì, ma arrangio alla bella veglia, ma non è che faccia le saldature perfette, no? Sì, io magari sia quello di specialista, qualcosa lo faccio. C'è una soldatrice che ho in campagna, sta cominciando a perdere colpi, ci avrà 40 anni. Prima saldavo che avevo un gioiello, adesso certe volte si punta e non vuole camminare, da quanto parte funziona bene. Così bisogna fare. Fatto. Purtroppo io avevo fretta di farli, ecco cos'è. No, pressa non me ne sibigliava. Quando era comodo me ne va via. Andavo con Gruvolloni o Grusoglio, ma stessi. Tanto non devo stringerli molto. Anche se stringi molto, poi non si rompono, li ho provati io. Stamattina ho voluto provare che fino a quanto resisteva quella barra che c'è saldata. Ho visto che riparava la mazza, ma è dove si muoveva. Ma chi? Non li devo stringere molto, perché sennò da voi devo impegnarli troppo, ma devo muovirli per farne riuscire lo ferro. Hai compreso? La taglia per tirarla devo stringere troppo. Ma se non la stringi la perdi anche. No, ma va bloccato, poco a poco va bloccato, e non si muovi. Non lo faccio. E lo dico che giorno in strada troverò la targa tua, devo mettere la macchina mia. Vabbè, dai, signori, vi lascio. Chiudo. Qui approfitto, dai. Ciao, ma chi? Stavi bene. Buon proseguimento in serata. Saluto di casa, a domani. Ciao, buon proseguimento, a risentirci. Riprendi, io chiudo, vai. A domani, buonanotte. Ok, ciao, Gianmari, ci sentiamo, a domani. Andate, riprendi il signor Bacchi. Ciao Gavoria, buona serata, saluta la signora, buona cena, buon tutto, a domani se coincide, buonanotte ancora. E allora tu, Marino, non si è sentito? Era lentissimo. Allora stavo parlando con Gianni e con Coso, poi interagiamo. Sì, gli avevo ascoltato, stavo ascoltando perché stavo infatticciando sul microfono, dunque se la radio era accesa e ascoltavo. Ecco, buonasera. Bello me. Misurare, parli del diavolo e c'è la pentola. Ok, buonasera a tutti, ciao domani, buonasera e salto in casa, domani se coincide. Avanti, da chi sono ancora buonasera a cambio? Sì, buonasera, dottor Marì, grazie, avviato che ti sente. Così, bandito ti sei fatto? Sono mezzo casinato, Bacchi, mezzo casinato, si sono le cose qui in campagna e così via, sono da vecchio mazzo e lei ti avete trovato, capito? Adesso domani appena esco devo scendere giù a prendere la roba, sto un muletto all'ingresso, capito? Ci sono due muletti, devo tolto a siepe, che mi fa pettare, fa, capito? Tutto qua, avanti. Sempre lavorando, sempre lavorando. Vista il sole, il marino lavora sempre. Te l'ho detto, quando parli del diavolo spuntano le corna. Guarda, ti stavo ascoltando tutta la sera del sole, stavo facendo una cosa. Stavo ascoltando, volevo vedere se mi facevi a pezzi, capito? Tutto qua. Sto scherzando, ma stavo facendo cosa, adesso ho fatto anche impianto del viale, capito? Ce l'avevo già fatto, l'impianto fatto, ma l'avevo fatto 20 anni fa, dunque sto iniziando a dare numeri, il numero vecchio, sono un camma come il possesso, il tubo con il ragazzo e ci siamo, lo rifaccio nuovo. Avanti, Bacchi. Sì, fatto tutto nuovo allora, va bene me, raga. Allora, hai finito adesso, ancora ne hai. Immagino, va, figurati. Adesso stasera ho caricato, ci ho portato via tutta quella roba, vedi come si chiama, tutta quell'erba, ceppi, tutta quella roba che c'era, l'ho caricata sul piazzone del mio confinante. non è un altro ordinato, adesso ho fatto il conteggio dei blocchetti, domani lo, appena esco devo scendere giù e devo contattare un questo per i blocchetti, così me ne faccio portare Ciccia, se no guai, faccio un muletto a tenere sei file come l'ingresso, no? Sono da portare l'impianto nuovo dell'ingresso perché è un casotto, l'impianto l'ho fatto io ma è un cavi che mi portava un amico da Sentino, capito? Lungo questo sezione, è lungo, ogni paletto c'è una sezione, con i sezzi, per 20 anni le vogliamo cambiare, non c'è nulla da fare, e ogni tanto sono in tilti. Bene, avanti to. Un sacco di lavoro ci vuole, purtroppo. Andava così là. E adesso mi ho fatto già conteggio per noi i pozzetti, ogni paletto, cioè un pozzetto. Capito? Perché l'impianto vuole fare, lo capo, devi salire, devi scendere, salire, devi scendere e così via. Invece io ho fatto. Perché c'avevo il capo, no? Facevo la discesa dalla lampada e poi facevo i morsetti col capo, capito? Invece è sbagliato, oggi non si fa così, si mette un col capo, devi salire e scende, e fa una cosa più ordinata. Tutto qua, i morsetti non ne usi pochi e nulla i morsetti, anzi da chi? Quasi niente. Così bisogna far salire e scendere, se no buonanotte, devi salire e scendere, salire e scendere, perché voi che accendono tutta una volta. Mettiamo la roba da recuperata, capito da chi? E ho preso il provvisorio, l'abbiamo fatto io, così come ho fatto. Però come posso lamentare, è durato quasi 20 anni, figurati. Quasi 20 anni, così via, adesso con calma domani devo trovare questo qua per i blocchetti, come mi ha portato i blocchetti l'altra volta, e poi mi organizzo col tubo colorato da 40 e con i pozzetti, e poi piano piano copro il cavo e me lo faccio, sale scendi, avanti, top. È fatto tutto quindi, casina. E va, o mettere a posto dei piantoni. Ho chiamato con la mente, non ti ho capito, scusa, mi sto arrivando a Giovanni a basso, confronto a prima. 39 di Santiago quasi 10, adesso 39. E ci ha mandato il cuore, non manda correre, cioè avanti, stavo da salire, scusa. Ecco, sei finito di farti questa cosa qua. Finito, no, ci va ancora. Guarda, faccio questi muletti qua, devo mettere il copricoso, boh, e non faccio più altro, Non faccio più altro che naggio, una scatola intera, tutto qui avanti da chi? Lo fai, si può sedere, questo è in blocchetti colorati o quelli neri? Forse come ho fatto gli altri, capite, cazzo, ho due blocchetti e poi loro non sono venuto a casa, leggera, e poi pittura come ho fatto, come c'è l'altro, e mi metto il coprimuro sotto, così almeno la signora può mettere le piante oppure si può anche sedere, no? Avanti da chi? Infatti è anche più bello, anche più signorile il lavoro, capito? Quando è finito così con il coprimuro. Uno si può anche sedere oppure metterci delle piante sopra. Va benissimo. Andiamo d'ore. Pazienza, basta piano piano, è sempre andelli, quindi si deve fare così, piano piano è sempre andando. Ascolta, la buona visione, fatta vai. Uragan, ma vai tutto. Non ho capito un tubo, c'è il cuore che si sta quasi coprendo. Ti ho chiesto se la visione è passata. Oh, io da me non ce n'è corrente, come ti mai? Sono da bebè. Ah, così, va bene, dai. Va bene, avanti, da chi? Io, per me niente, zero. Bene, signori, io vi devo lasciare perché mi hanno chiamato da giù, ora le medicine. Bene, ciao Marino, buona serata, saluto il Correa familiare, a risentirci domani. Ciao Tore, vieni con le patatine anche per te, saluto la signora. Buon quasi ancora e Bacchisio in QRT, avanti Tore. Sì, ciao Bacchi, stammi bene. Sentiamo domani se tutto andava ok. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, sono pure in casa. Ci sentiamo domani. Comunque è una bella modulazione. Una bella modulazione, più lasciano anche più forte il sole come segnale. Ok, a domani sei concilio, avanti to. Sì, avanti, da. Sono un altro paio di minuti e poi me ne abbondo pure io. Sì, anche io sono, ma chiamato, la zia Giva. Metto a spazzolare su un altro canale, ciccia, zia Giva, mi dà un buon ascolto. Va bene, dai. Ok, ciao, ciao, ben sentito, salto in casa, dai, ci vediamo domani, se coincide, dai. Ok, ciao, ciao. Ok, ciao, Mari, stammi bene. Ok, ciao.